A bordo campo di Dario Ricci. Classe 1988, vive in provincia di Padova, nuota dall'età di 4 anni, ha iniziato a fare agonismo a 9 e oggi, a pochi giorni da Londra 2012, è la grande speranza del triathlon olimpico italiano. E allora, benvenuto a Radio 24 e a bordo campo al nostro ospite di oggi, Alessandro Fabian. Carissimo Dario, ti ringrazio, eccoci qua, tornati dalla gara, è un piacere essere qui con te a discutere, a parlare del triathlon e di Londra 2012. Parliamo oggi di triathlon, una disciplina in cui noi non abbiamo grandi tradizioni olimpiche, ma Alessandro, davvero potresti essere tu il primo a scriverla questa bella pagina olimpica per i nostri colori, perché quinto posto nella prova di campionato del mondo di Madrid, sei ormai da qualche anno il numero uno azzurro nella specialità, lo ricordiamo, specialità che consiste in una triplice prova di nuoto, bicicletta e corsa. Tra l'altro, ricordami un po' che il triathlon olimpico, su che distanze lo fate? Allora, noi ci distinguiamo dall'Ironman, noi siamo distanza olimpica appunto dell'Olimpiade, quindi è 1,5 km di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa. Una cosa molto fattibile, ben lontana da quella che è l'Ironman, da quello che è nato il triathlon, un vero triathlon è nato dall'Ironman, però noi facciamo questa distanza che è una cosa diversa e poi è un altro livello, quindi parliamo di una cosa abbastanza differente. Assolutamente sì, quindi questa qua è facile, bisogna anche dire che io ti ho anche battuto in un triathlon, il famoso triathlon Laureus qui a Milano, quindi cerca abbassa le penne quando parli con a bordo campo e con me. No, infatti ricordo bene quella giornata di Laureus, che infatti saluto tutti i miei carissimi amici Laureus, che infatti sono anche ambasciatore, è più che altro un piacere essere un ambasciatore di un'associazione così importante che comunque aiuta i giovani con lo sport e che ben tutti gli anni sta promuovendo con questo triathlon e che anche quest'anno probabilmente, se non ho qualche impegno con la federazione, sarò presente a Milano, vedremo insomma. Bene. Magari potrai chissà battermi una nuova volta. Beh, diciamo così che ti concedo la rivincita, va, se fai se fai il bravo a Londra, perché si va a Londra con che speranze, Alessandro? Questi risultati testimoniano che dopo tanto lavoro sei vicino ai top della specialità. Certo, allora partiamo dal presupposto che c'è sempre da lavorare, quindi noi vogliamo lavorare. Diciamo, non speriamo, ma vogliamo un buon risultato a Londra, quindi andiamo lì convinti. Poi sappiamo che la gara di Londra sarà una gara a secco, quindi no, finora dal 2000, perché il triathlon è entrato nelle Olimpiadi dal 2000, non ha mai vinto un favorito. Quindi, ma chi lo sa, vediamo, io non dico niente, non lo so, però noi lo vogliamo, vediamo. Tra l'altro ti chiedo su quale percorso si svilupperà, raccontaci un po'. Ma allora, io ho provato il percorso dell'Olimpiade, l'ho già provato due volte, praticamente nel circuito di WTS come prova preolimpica, e il percorso è molto caratteristico. Direi che siamo una delle poche discipline che gareggia in centro a Londra, quindi vicino all'Hyde Park e vicino a Buckingham Palace. Nuoteremo nella Serpentine con i 1500 metri di nuoto, sarà un unico giro, poi avremo la zona cambio appena fuori dal laghetto. Da lì prenderemo la bici e il circuito si snoderà intorno al lago della Serpentine e si snoderà anche nella parte più bassa dove c'è Buckingham Palace. Quindi è possibile, è possibile pure che si affacci la regina per guardare. Ma infatti l'hanno fatto apposta per la regina e per godersi la gara da casa, no? E quindi vedremo, no? Poi vabbè, da lì, quando avremo completato il circuito per 8 volte, avremo ripetuto il circuito per 8 volte, scenderemo a piedi e correremo intorno al suggestivo parco dell'Hyde Park, lì per altri 4 giri, concluderemo lì in centro praticamente. Beh, fantastico, non fermarti all'Hyde Park Corner, perché davvero fiato per parlare ne avrai poco. Ti chiedo i nomi dei favoriti, perché è una disciplina che a livello di top runner conosciamo poco. Beh, guarda, allora possiamo dire che i due favoriti al momento sono i due padroni di casa, i due fratelli Brownlee, inglesi, che puntano molto su questa Olimpiade, perché comunque giocano in casa, appunto. Poi comunque c'è anche uno spagnolo, Javier Gomez, molto professionale, un grande atleta che stimo. Poi magari c'è, può esserci qualche altro, magari tedesco o francese, chi lo sa, cioè, ce ne sono comunque. C'è anche qualche italiano comunque, questo è sicuro. Il lotto di chi va a giocarsi questo podio è ampio e come ogni Olimpiade la sorpresa è dietro l'angolo. Senti, come si prepara un'Olimpiade? Che tipo di allenamenti fate? Perché immagino che la giornata sia abbastanza piena, eh? Ma sì, diciamo che allora si divide principalmente il periodo invernale e il periodo estivo. Il periodo invernale magari è quello in cui c'è più quantità, perché ci fa meno intensità, quindi quantità, volumi, sia nel nuoto che nella bici che nella corsa, per la costruzione che poi ti porterà nel periodo estivo a fare meno quantità ma più qualità per raggiungere i ritmi gara. Quindi diciamo che comunque al giorno facciamo dai 2 ai 3 allenamenti, se magari può capitare anche il 4° allenamento che può essere la palestra. Sono giornate abbastanza impegnative, infatti è molto, molto importante il recupero, l'integrazione, l'alimentazione, tutta una serie di fattori che poi non da meno conta molto anche la testa. Il fattore mentale è una cosa molto, molto, molto importante che infatti io curo come curo tutto il resto e devo dire che tutte queste piccole cose poi fanno la differenza nel momento in cui sei in gara. Senti, prima di stramazzare a letto c'è tempo anche di fare qualcos'altro nella giornata, riesci ad avere degli hobby? Sì, beh, diciamo che il mio hobby in questo momento forse è leggere qualcosa, oppure quando ho un po' più di tempo studio scienze motorie a Padova, però quest'anno ho studiato poco perché ho fatto diversi ritiri con la nazionale che mi ha mantenuto impegnato abbastanza, però mi sono ripromesso che dopo l'Olimpiade sicuramente investirò un po' di più tempo negli studi, anche perché voglio riprenderli e concludere come l'obiettivo Londra è anche un obiettivo lo studio per riuscire a concretizzare qualcosa. Ecco, bravo Alessandro Fabian, mi raccomando, non ti far mettere dietro la lavagna per gli studi universitari, anzi magari fare un esame con una medaglia al collo, tutto sommato può anche... Non sarebbe male, vero? E magari il professore è un po' più indulgente, su, diciamolo. Giusto, hai ragione. Sì. Ma vedremo, sai, sarò ben contento di provare. Ecco, l'importante è avere il problema. Senti, ma tempo per le ragazze ce n'è, perché voi i triatleti, fisici statuari, immagino codazze di fan che vi inseguono, ma non c'è poi il tempo di uscirci, a meno che non facciano maratone o corsi. Se uno vuole trova il tempo per fare tutto. Oh. Quindi con questo ti do tutte le dritte. Diciamo che no, trovo il tempo anche per quello, anche perché insomma è una cosa abbastanza importante, sì, anche lo svago. bene, l'importante appunto è avere un percorso ben bilanciato verso Londra. Immagino che negli occhi c'è già la cerimonia d'apertura, perché poi la gara è vero che è tutto, ma in quel momento ci sono tutti, vincono l'Olimpiade, no? Ma sì, io sinceramente purtroppo non sarò la cerimonia d'apertura perché andrò qualche giorno più tardi, però forse probabilmente faremo la cerimonia di chiusura, chi lo sa, vediamo come va la gara, da lì si deciderà il tutto. Ah caspita, allora proprio vedere quel braciere non acceso credo che ti metta ancora più voglia di fare una grande gara, eh? Certo, la mia curiosità è di entrare nel villaggio olimpico e vedere tutti questi atleti professionisti come me che sono lì per eccellere, per questa prestazione che poi in qualche modo ti tocca per tutta la vita, ti segna per tutta la vita, non solo per quanto riguarda la parte sportiva, ma anche per quanto riguarda la parte personale di una persona. Quindi sono curioso di vedere come sarà questa esperienza. L'altro grande momento topico per un atleta che partecipa ai giochi è la vita in comune nel villaggio olimpico. C'è qualche campione, magari straniero, di altri sport che vorresti incontrare e magari mangiarci fianco a fianco a mensa? Ma sicuramente c'è qualche atleta, anche se devo dire la verità, nell'ultimo periodo c'è stata un'atleta italiana che è l'atleta che ci rappresenta forse più di tutti, perché comunque sta facendo la nona Olimpiade, probabilmente farà la nona Olimpiade, che è Josef Eden, e che mi ha molto colpito per alcune frasi o comunque per alcune interviste che ha fatto, perché mi ha colpito la sua consapevolezza e l'atleta che è, che secondo me è una grandissima persona. Beh, davvero, allora Londra sarà l'occasione per coronare anche questo piccolo grande sogno e farsi prendere sotto l'ala protettrice della grande Josefa, Alessandro? Certo, assolutamente, magari mi insegnerà qualche trucco, qualcosa del genere, per andare ancora più forte. E allora, Alessandro Fabian, intanto grazie per essere stato nostro ospite qui a Radio 24 e a Bordo Campo. E qual è la prova in cui sei più forte, Alessandro? Ma guarda, io vengo dal nuoto, quindi il nuoto è quello un po' più affine. Però anche le altre no, non sono da meno, quindi vedremo, c'è da crescere, ci stiamo lavorando e anche il resto saranno delle ottime prove. E allora un grande tuffo che possa essere il primo importante passo verso un sogno olimpico. Beh, sicuramente. Volevo solo ringraziare la mia squadra, il Centro Sportivo Carabinieri, che mi dà questa possibilità, perché se non ci fossero loro non sarei qui. E la federazione, i miei sponsor e il mio staff che mi segue sempre e che nei momenti magari anche di crisi mi aiuta a superare e ad affrontare queste piccole prove. Assolutamente, ringraziamenti fatti, un grande in bocca al lupo a cinque cerchi per Alessandro Fabian, campione del triathlon azzurro. Crepi, grazie mille, ci sentiamo presto Dario, grazie a te. A bordo campo. Parliamo di calcio oggi a bordo campo, parliamo di quella Kiev in particolare che, come sapete, sta ospitando gli europei 2012, gli europei di calcio, e che soprattutto di questi europei il 1° luglio ospiterà addirittura la finalissima. Staremo a vedere come andrà a finire, ma intanto oggi facciamo un viaggio nella memoria, torniamo in una Kiev ben diversa da quella odierna, la Kiev del 1942, la Kiev che viveva il giogo dell'invasione nazista e in cui si giocò una partita di calcio del tutto particolare che racconteremo e rivivremo con il nostro ospite. Benvenuto a Bordo Campo e a Radio 24, Damiano Benzoni. Grazie. Allora, Damiano è un giornalista freelance che cura un blog davvero interessante, Dinamo Babel, questo è il nome del blog, e che ha recuperato e approfondito la storia di quella che viene ancora oggi chiamata e ricordata con un monumento a Kiev come la partita della morte. Damiano, di cosa stiamo parlando, di cosa vogliamo parlare? Stiamo parlando innanzitutto di una squadra di calcio dal valore tecnico altissimo, perché era formata quasi interamente di giocatori dell'allora Dinamo Kiev, una delle potenze del campionato sovietico, e del Lokomotiv di Kiev. Ma stiamo parlando anche e soprattutto di una storia di occupazione e resistenza al nazismo, appunto quello della resistenza ucraina nel 1942. La Sterz era formata quasi fortuitamente come squadra di una fabbrica del pane, il cui proprietario era un grande appassionato di calcio della Dinamo Kiev, e avendo la possibilità appunto di assumere degli operai per il suo stabilimento aveva fornito protezione ai calciatori, una cosa non da poco se pensiamo che Dinamo nel sistema sovietico voleva dire essere dipendenti del Ministero dell'Interno, dell'NKVD, almeno nominalmente, quindi essere sicuramente nemici particolarmente presi di mira dal regime nazista. Questa formazione di questo panificio, la START, diventa in qualche modo anche un nucleo di resistenza attraverso il football. Sì, nel 1942 il regime nazista decide di organizzare un campionato cittadino a Kiev per motivi di propaganda. Lo START, appunto, nonostante sia ben conscia del valore propagandistico del campionato, decide di partecipare con una squadra che assolutamente non è collaborazionista e che crea dei grattacapi, perché infila una vittoria dopo l'altra nonostante le ristrettezze dovute alla guerra, diventa una specie di talismano, diciamo, della città di Kiev, incoraggia la resistenza, incoraggia i gruppi che cercano di far uscire i cittadini di Kiev e portarli in zone ancora sotto il controllo sovietico. Quindi diventa anche un simbolo da piegare per il regime nazista, che cerca di mettere contro alla START squadre sempre più forti fino ad arrivare a il famigerato Flakel fu una delle squadre più forti del battaglione tedesco di stanza in Ucraina. Fra pochi istanti scendiamo in campo per rivivere quella partita del 9 agosto 1942, ma prima ci ricordi qualche profilo di questi campioni della Start? Penso che i due più caratteristici siano quelli di Trusevic e di Gonciarenko. Trusevic è il primo giocatore della Start, è il portiere conosciuto come grande portiere della Dinamo Kiev, grande capitano, figura di ispirazione e anche conosciuto per il suo stile di parata spettacolare. È lui veramente la torcia, l'illuminazione di quella squadra. Gonciarenko è uno di quelli che hanno per primo organizzato la squadra ed è anche il giocatore attraverso cui è rivissuta la memoria della partita. Nel 92 fece un'intervista radiofonica raccontando, e la cosa curiosa di Gonciarenko, che era un attaccante, è che al momento dell'invasione nazista aveva tenuto da parte la sua divisa e i suoi scarpini, perché che ci fosse il nazismo, che ci fosse il comunismo, per lui era l'importante, era giocare a calcio. Eh sì, quella divisa diventa una parte di te, perché racconta la tua passione più pura, più viva. Il 9 agosto 1942 c'è questa storica e leggendaria partita, anzi direi mitica, perché poi i contorni del mito hanno in qualche modo anche caratterizzato il racconto postumo di questa sfida. La Start sfida appunto il Flakelf, che è la formazione che raccoglie il meglio dal punto di vista calcistico e anche militare dell'esercito d'occupazione nazista. Sì, esatto, come accennavi, appunto, la storia è stata ripresa e distorta più volte per motivi più disparati, per la propaganda sovietica, come anche per la drammatizzazione in film, in opere teatrali. Una famosa drammatizzazione, anche se ha poco a che fare con la vera storia, è il famosissimo film Fuga per la Vittoria, che proprio dalla partita della morte prende l'ispirazione. L'obiettivo del Flakelf è piegare assolutamente la Start e fiaccarne la resistenza, spegnere un simbolo. Comincia con la Start che si rifiuta di fare il saluto nazista e che, nonostante il gioco sporco tollerato dall'arbitro, riesce a portarsi in vantaggio per 3-1 alla fine del primo tempo. E all'intervallo c'è un episodio particolarmente significativo: un ufficiale dell'SS entra nello spogliatoio della Start e dice ai giocatori: abbiamo apprezzato il vostro bel gioco, lo spettacolo che avete dato in campo, ma non vi aspettate di poter vincere questa partita, in quel caso dovreste valutare bene le conseguenze. La partita finirà 5-3 per la Start, con addirittura l'umiliazione finale: un giocatore della Start dribbla l'intera difesa del Flakelf e poi, invece di segnare, ributta la palla in campo. Così i giocatori dello Start firmano la loro condanna a morte, verranno tutti arrestati, uno dei giocatori morirà torturato per il fatto di essere lui, non nominalmente ma di persona, un agente dell'NKVD, e gli altri finiranno nel campo di concentramento di Siret. E a Siret moriranno tre dei giocatori, tutti giustiziati lo stesso giorno, tra cui Trusevic. Si racconta che Trusevic sia andato a terra e, con l'agilità che l'aveva reso il portiere più famoso dell'Unione Sovietica, si fosse rialzato, avesse urlato: lo sport rosso non morirà mai, e fosse stato fucilato nella sua divisa rossa, che era l'unico indumento caldo che possedeva. Oggi a Kiev, a conservare memoria di questa storia, di quella partita, c'è un monumento, vero? Sì, c'è una statua allo stadio della Dinamo, appunto, di Kiev, allo stadio Lobanovsky, che rappresenta i quattro giocatori morti, e reca una poesia scritta nel 71 dal poeta Stefano Linik, che dice: per il nostro presente sono morti nella lotta, la vostra gloria non si spegnerà, eroi, atleti senza paura. E allora, direi che migliore conclusione non poteva esserci. Giusto qualche altro secondo per ringraziare Damiano Benzoni per essere stato nostro ospite oggi e per averci aiutato a rivivere questa pagina leggendaria di questa partita e che ci aiuterà sicuramente a vedere con altro occhi questa Kiev che ospita questi europei. E per ritrovare i racconti e le testimonianze di Damiano vi ridò appuntamento, oltre che a qualche altra puntata di A Bordo Campo, ci contiamo Damiano, anche e soprattutto al suo blog Dinamo Babel. Dinamo Babel si può seguire anche attraverso Facebook e attraverso Twitter, sempre cercando Dinamo Babel. E allora ci rivediamo anche sui vari social network, ma al più presto possibile di nuovo qui a Bordo Campo. Volentieri, ti ringrazio. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it dove trovate anche il blog di A Bordo Campo e scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it. L'appuntamento come d'abitudine è per domenica prossima alle 14.30 e ogni sabato mattina in replica alle 6.30. Una buona giornata da Dario Ricci.